mettevano in marcia, scaldavano l'aria da sole. Sì, comunque per ricevere i segnali M non penso che ci vogliano quelle antenne enormi, eh. Le antenne enormi ci vogliono per rifletterci sopra la Luna, per ricevere forse anche una discreta direttiva, tipo quella che a Marco riesce già a fare parecchio. E qualcuno dipende dall'interlocutore, dalla giornata, ci sono molti parametri, perché chi filtra eccezionalmente questi segnali, a parte la perdita per la distanza eccetera, ma è proprio tutta l'atmosfera eccetera, seconda la densità d'aria, la pressione atmosferica, nuvole, ionizzazioni, aurore boreali, tutti i casini vari, correnti magnetiche, c'è un sacco di parametri che influiscono sul fatto, però mediamente ci sono 274 dB di attenuazione, quindi devi capire che insomma devi avere almeno un'antenna di una ventina dB di guadagno, se poi c'hai amplificata eccetera, c'è qualcuno che riesce a sentire, non a farsi sentire, ma a sentire usando un cavalletto di macchine fotografiche con una buona antenna, anche con un paio di metri di buche a tutte le polarità, ubiqua, a destra, a sinistra, verticale, orizzontale, quindi c'è il sistema tipo diversity che becca tutti i segnali, come arrivano non gli scappano, riesce, sa che qualcuno spostando a mano addirittura riesce a seguire correggendo, ma insomma se dall'altra parte logico c'è gente che c'ha il parabolone da 20 metri o c'ha 64 antenne come qualcuno accoppiato assieme, gli spara dentro 10 kW, per forza riesce a sentirlo, non sempre il radioamatore sta trasmettendo dall'altra parte del globo e in quelle condizioni. Beh sì. Io ho letto qualche cosa su questi che fanno l'EME, ce n'erano alcuni che avevano pubblicato il log, tipo tutte le stazioni che erano riuscite a ricevere, con ore, eccetera, eccetera. Orari, segnale, non so se c'era segnale, boh. Comunque, poi se non sbaglio vanno in CV doppio, quindi se ne fa la frequenza silenziosa, vai lì, senti appena il rumorino di fondo, lo demoduli subito. Magari per sentire quel rumorino di fondo leggero, appena percettibile, quello magari sta usando chissà quante antenne incrociate, e tu là là, e tu magari lo stai ascoltando con 15 elementi, e basta. Però per sentire già si può fare. Ma se non sbaglio Marco forse ha fatto qualche cosa, perché mi ha detto che lui non aveva il rotore zenitale, aveva solo l'azimutale, però quando la Luna è bassa nell'orizzonte, che comunque penso che sia il momento migliore perché fa i salti più lunghi di riflessione, quindi Stati Uniti eccetera, qualcosa forse l'ha sentita, eh. Mi sembra che avesse detto che qualcosa l'aveva sentita. Ma non mi ricordo, sì, è quando è all'orizzonte, bassa l'orizzonte che si hanno i massimi salti, diciamo, ecco. Sì, qualcuno è riuscito anche con apparecchi, con preamplificatori di 0,2 dB di rumore di fondo, mega gas, fette, materiali, oro, titanio, stronzio, con mega particolari maniacali, è riuscito anche a, però normalmente, insomma, ci vuole almeno un kilowatt, e non meno di 4 antenne accoppiate, poi se sono antenne tipo quelle di JXX, 39-40 elementi, parliamo di queste frequenze, è normale che riesci facilmente a superare i 23, 24, 25 dB, quindi quando vai a 25 dB sei già sulla buona strada, poi se le ottimizzi per stringere il lobo sotto gli 8, i 6 gradi, cioè siamo a livelli quasi di parabola, quindi più diminuisci i lobi laterali, più diminuisci i lobi, come ben sai, e più è silenziosa, perché tutti i lobi che riceve da dietro, da un fianco dall'altro, è tutto segnale che arriva in più all'antenna e quindi rumore in più, quindi è logico che più fai pulito il lobo che spara solo in avanti a tipo raggio laser, è più pulita, è più silenziosa e più riesce a tirar fuori i segnalini in bassi, e meglio riesce a concentrare la potenza in una direzione, quindi aumentano i guadagni sia a ricezione che a trasmissione. corretto, quanti di biglietto che c'erano per esempio in VHS di attenuazione? Ma guarda, M20, trasmissioni M, qualche sito radioamatore, mi ricordo intorno, non vorrei dire pezzerini, ma mi pare che erano a colpi di 200 qua, in HF di 272-274 dB, prova a vedere se ricordo bene. Perché c'erano trasmissioni M, aspetta, scrivo proprio, mi sto trovando un sacco di mondezza, riesco direttamente Earth, Moon, Earth, aspetta. Cosa che ero andato a vedermi sui libri più di 30 anni fa, quando quelli andavano a passeggiare sulla Luna, mi incuriosiva, ma che frequenze, ma che potenze devono usare per... cioè, a volte non riuscivamo a parlare, c'eravamo quei baracchinetti, non riuscivamo a parlare da Monteoro a Sassoli a momenti, cosa usavano questi per parlare a queste distanze spaventose? Allora si faceva salti mortali, allora c'era vivo la buona anima di ingegner Manca, che era un mostriciato di materia, che aveva fatto fior di progetti elettronici a livello nazionale e regionale, qualche amico radioamatore di una certa caratura, e chi di qui e chi di lì e chi di là, e si andava così, internet non c'era. No, mi sono arreso, stavo trovando un sacco di mondezza. Comunque, se ci dici fossi tu come la Mantova 1 e un BQ 131, io qua lo stesso, 27, una giornata di QRM0, forse ci sentiamo. Ma da qui a lì? Da qui alla Luna. Non sono una tenazione così come fai, no, se non c'hai, te l'ho detto, se non c'hai almeno te intorno ai 25 dB, perché cominci 25 dB tu e 25 io e sono 50, e già ci rimarrebbero, se non ricordo male, altri 200 dB da... e allora poi sbatti kilowatt tu, kilowatt io, un po' qui, un po' là, poi i segnali da ricevere sono 0,1 microvolt, bim bum bam, banda passante strettissima, pari a ttt, allora ci si può riuscire a sentirci. Ma non è che dici, entro sulla Luna, ho sentito, 9,60, bello. No, ma siamo all'attenuazione, tu che cosa intendi? L'attenuazione è forse del segnale che parte, viene riflesso e ritorna indietro, o tu parli proprio del percorso, cioè che adesso parte da qua e arriva l'attenuazione di 8 dB? Parte da qui, sbatte sulla Luna, io sto sparando, pari a 150 kW, perché tra amplificazione d'antenna e il kilowatt che metto, sto sparando pure 300 kW, risulta la mia potenza radiante, come se avessi una fonte isotropica con 50 kW. Quando l'attenuazione di tratta, Terra-Luna, Luna, e ma cosa arriva sull'Australia di segnale? Che tipo di antenne, guadagno e amplificatori ci vogliono per riuscire a trovare quei pochi microvolt che riescono a tornare indietro? Il calcolo è certo, con la tratta andata e ritorno, certo che sì. Come a dire che da qua alla Luna ci sia un'attenuazione di 70, di 40, di coso, ma siccome pare sia proprio uno schifo, assorbe molta radiofrequenza, non ne riflette molta, nonostante ci siano dei crateroni di chilometri che sarebbero delle parabole ideali per concentrare il segnale qua e là, nonostante tutto non è... ci fosse stata l'acqua al mare avrebbe riflesso, come la terra avrebbe riflesso 100 volte più segnali indietro. Sì, però aspetta, se tu pensi che magari la Luna comunque come materia di riflessione è pessimo, però se che la Luna, cioè, per riflettere il segnale fa tornare indietro, sia un pessimo riflettore, quindi può darsi che i segnali che vengono riflessi ritornano indietro, magari lì arrivano cresso con 80 dB oltre il 9, e quindi senza tutte quelle direttive, una direttiva più sincera invece che tutti quei kilowatt, magari che ne so 300 watt, se tu stessi sulla Luna mi ascolteresti bene senza esagerare. Ma non sono andato a vedermene quei calcoli, ma così per intuito penso che sarebbe un fondo scala, senza problemi, con quelle antenne da qualsiasi parte, e non essendoci ostacoli per quanto attenui l'atmosfera, penso il problema dell'attenuazione è proprio la riflessione, cioè quella non è, anche se ci sono cratere a forma di parabole, ma non sono fatti né in rame né in argento, né è sempre sabbia che succhia segnale e ne riflette solo una millesima parte indietro, quindi senz'altro i segnali presenti lì, se ci fosse un ricevitore, sarebbero da fondo scala. Non sono andato a vedermelo, ma per intuito te lo sto dicendo, e poi vado a prendere carta e penna, vedere proprio l'attenuazione di tratta in uscita e in rientro, ma è pieno di siti che tratta queste cose. Io così a colpo mi pare di ricordare storie vecchie di 30 anni fa di attenuazione in circa 270 dB tra andata e ritorno, ma poi basta andare a vederle con precisione. Sì, ma adesso non mi ricordo se l'ho letto da qualche parte o se mi ha detto qualcheduno, mi sembra che nelle onde HF, quindi da 0 a 30 e qualcosettina di più, vengano trattenute dal campo gravitazionale terrestre, cioè ci sia, quindi se tu vuoi parlare, che ne so, se io, supponiamo che tu fossi sulla Luna, un astronauta e accendi il baracchino in 27, magari non ci sentiamo proprio perché il campo gravitazionale terrestre a me mi fa un'attenuazione bestiale, però se vai in VHF o in HF dovrei uscirne tranquillamente con pochissima attenuazione. Questo non mi ricordo se l'ho detto da qualche parte o se l'ho detto qualcuno. Infatti solitamente per le comunicazioni fuori dalla Terra si utilizzano sempre le V, le U e meglio ancora le SHF, magari con paraboline. Sì, no, le frequenze alte notoriamente bucano meglio l'atmosfera che frequenze molto più basse, notoriamente più facilmente ionizzano e riflettono nuovamente verso il basso. Oh, sì, si usano sempre frequenze abbastanza alte. Le VHF sono state sempre tra le più usate in aeronautica e quindi anche nelle missioni spaziali. Sì, infatti, non so se ti ricordi anche quei libri tipo Neri, no? Che ti fa vedere gli angoli di riflessione, per esempio in 27, con certi angoli viene riflesso e va giù, con certi angoli maggiori non viene più riflesso in giù, ma va nello spazio, però va nello spazio, ma a che costo? Magari gli viene trattenuto il 70% del segnale, o magari anche un po' di meno, comunque sempre tanto, si deve fare molta strada nello spazio. Come buca bene il segnale di 8 bit, 12 giga, 11 giga, un puntino. Ah beh sì, quelle cose lì, già hanno parabole ad alto guadagno, usano potenze anche abbastanza alte, non pensare che usino 10 milliwatt. Avevo letto quanto usavano, lo sai, però non me lo ricordo, sul sito dell'Outbeer mi sembra che utilizzino pochi watt, perché poi gli hanno anche il problema dei pannelli solari e devono alimentarne di cose. Mi sembra che utilizzino pochi watt, no, milliwatt no, possono essere 5 watt, 2 watt, vabbè, però le frequenze sono tanti, a 11 GHz. No, se non ricordo, guarda, se non sto ricordando male io, proprio avevano diminuito con i digitali, con l'analogico erano anche 400 watt a trasponde. Ma guardateli così, quei pannelli solari messi lì sopra, che non filtra, i raggi solari che non filtra l'atmosfera, sono pannelli solari da paura, 23, 25 kilowatt, non pensare che sono pannelli solari da 200 watt. Sì, ma lo cerco. Outbeard, non si trova il sito, però l'ho visto molti, diversi anni fa, Telsat, ma questo è il Telsat Italia, sì, ma aspetta che cerco. Guarda che sì, col digitale so che usavano potenze inferiori, ma gli altri mi ricordo cose così, quegli analogici, un illuminatore a 480 watt, l'altro a 360, ma eravamo sempre nell'ordine di mezzo kilowatt. E mi ricordo che consumano tutta quella potenza, perché sommati per tutti i trasponder e poi non so se c'erano anche vabbè, giroscopi non penso. Aspetta un attimo il telefono. Ecco. E parcheggio. Allora, vediamo un pochettino. Forse è questo Digisat. No, questo Digisat. Mi ricordo, è un Telsat, ma è sempre IT. Quello che c'era proprio il sito, il Lussemburgo lì. Hai trovato qualcosa? sfogliando. Perché in effetti adesso cercano un dato un po' tecnico, non sempre te lo scrivo. Qualche parte ci dovrebbe pure essere. Aspetta, faccio una ricerca più precisa. Ci metto magari potenza, watt, aspetta. Cioè dove le volete quelle informazioni? In quei libri, cioè scusa, quei libri, quei giornali che vendevano satellite, insomma, li compravo per vedere i canali e le frequenze, poi quando è passato il digitale ho mollato tutto. E hanno cominciato a tagliare fuori un po' di pirati. Forse hai trovato qualcosa, telestare i satellite. Allora, parla di Sputnik. Ho letto una cosa di... Ah, ecco qua. Otbirdo viene modificata questo satellite, se no è interessato 2 e se uno vengono spostati rispettivamente a 13 gradi, e qua parla della storia. I 5 satelliti rilasciati dall'86 al 90 sono ancora operativi. Gli interessati secondo la serie di Colonna sono dotati di 16 trasponder da 50 watt l'uno. Ragionamento. 50 watt l'uno. Otbird invece 16 da 70 watt. Attualmente la costellazione dei satelliti non è composta da 200 trasponder distribuiti su 14 satelliti. Serie 2 e quindi c'è una potenza. Fate il conto, sì, no, col digitale hanno diminuito, se no prima l'analogico erano potenze così, erano appena al di sotto del mezzo kilowatt, 400, 480, 370 erano, e ne avevano diversi di illuminatori, però col digitale poi hanno aumentato molto di più il numero di illuminatori, per ogni canale analogico come se ne hanno sbattuto 7, 8, 10 dentro, quindi trasmettono centinaia e centinaia di canali e ogni spot ha molto meno potenza. Beh, se da circa 500 watt e 400 sono passati a 50-70, non è 10 volte di meno, ma almeno 6-7 volte di meno, sì. Eh sì. Comunque parecchio, 70 watt, se pensi che la portante continua, sono, allora, 70 watt, cosa avevo detto, se l'ho perso, 16 trasponder a 70 watt. E non c'è da fare molti conti, no? Quando fai 16 per 10 watt siamo già a un bel po' di potenza, quando moltiplichi per 7 sono kilowatt. Bestiale. Le immagini, roba di radiazione, e ce la prendiamo noi diretta ogni giorno, dallo spazio. Fatti il conto cosa sono in grado di radiare, se un amplificatore professionale montato su satellite ti dà 70 watt continui, vuol dire che è in grado di erogarne, che fatto che se ne eroga 300 o 400 a cosa non gli succede un baffo, però lo mettono così, dissipa, non sono problemi di nulla, proprio come un motore può lavorare a 10.000 giri, fai girare a minimo 800 giri, tranquillo, sempre andando. Poi non sono mai in ombra, quindi il sole non lo hanno sempre, non sono come quelli che stanno intorno alla Terra, che sono ombra, luce in ombra, poi hanno le batterie. Vabbè, qualche batteria forse ce l'hanno, però cioè ce l'avranno sicuramente, penso, qualche stabilizzatore, boh. Però praticamente luce diretta del sole, chissà cosa tutto arriva. Sì, ma non è lì il problema è sulla stabilizzazione termica, che come ben sai sono a colpi di 160 gradi dove batte il sole e a meno 160 parte dall'altra parte. Tu immagina di avere una lastra di vetro, in mezzo metti, non esiste un isolatore così, però tu immagina che ci metti un foglio di isolatore, due vetri, in mezzo a un isolatore, da una parte misura la temperatura sia più 160, giri l'angolo di vetro sia meno 160, quindi tendono una temperatura a annullare l'altra, i meno 160 tendono a raffreddare la parte bollente e la parte bollente tendono a scaldare la parte sotto, poi ci sono dei circuiti appositi per le distribuzioni termiche che fanno sì che abbassano notevolmente sotto i 100 gradi la parte colpita dal sole e quella che dovrebbe essere a meno 160 eccetera la portano notevolmente a temperatura alta e quindi dove vogliono dissipare il calore, hanno la parte del satellite dove può dissipare il calore e l'altra dove possono attingere il calore che gli serve. Sì, però comunque sono belle cose un po' difficili da capire, nel senso che noi conosciamo 160 gradi o meno 180 gradi sulla Terra, vabbè sulla Terra meno 180 è un po' difficile, però lì devi tenere presente che non c'è aria, quindi non c'è acqua, non c'è umidità, mentre qua da uno sbalzo di temperatura con l'umidità che abbiamo spaccherebbe qualsiasi cosa, lì forse c'è anche da dire che hanno un ottimo isolante che è proprio il vuoto, quindi magari hanno i comportamenti saranno differenti sicuramente. Poi hai notato che vivono molto sul colore, tendono molto il bianco in modo che rifletta, invece che lo scuro, anche le tute dei tipi sono scure, cioè se tu metti un astronauta con una tuta che ha dentro una stanza a 180 gradi magari non dura più di 10 minuti, magari nello spazio invece è tutt'altra cosa. Ma è per forza, quella colpita dal sole, non essendoci il filtro dell'atmosfera che blocca tutti i raggi beta, gamma, X e qui e là, praticamente all'istante a 180 gradi, però dove batte il sole? Dalla parte che all'ombra sei a meno 160, 170, non ricordo di precisione, però sono temperature mostruose così, dalla parte del coso ci sono oltre 320 gradi di differenza, dal picco massimo che batte il sole al picco minimo. Mi ricordo che erano 320, 330, 340 gradi di differenza termica, quindi non stiamo parlando di 2-3 gradi di differenza. Sono qua un microonde, forma microonde quasi. Non so se lo sapevi, ho visto un documentario, no? Dove i primi astronauti praticamente vedevano ogni tanto come dei flash e non sapevano dove venissero. E poi praticamente un astronauta ha detto vedo come delle luci, ma non capisco la provenienza, quindi aveva paura degli UFO, che fosse UFO o qualche altra cosa, dice c'è qualcuno là fuori. Poi a un certo punto aveva chiuso gli occhi e le vedeva anche con gli occhi chiusi, però non sapevano mai dire che cosa fosse. Poi magari quando ritornavano alla base portavano gli elmetti, casi notavano al microscopio che erano delle microfessure, ma proprio piccole, piccolissime, però c'erano, come se ci fosse un bombardamento. Poi hanno scoperto che le stelle che esplodono, le supernove, che praticamente stanno fuori dalla nostra, o dentro la nostra galassia, quindi la Via Lattea, oppure fuori, magari la galassia di Andromeda, o galassie ancora più lontane, praticamente questi neutroni, non so che energia abbiano, ma sono come dei punti invisibili, passano, attraversano miliardi di chilometri, arrivano, e quello che trovano lo perforano, praticamente loro vedevano queste cose nelle retine, cose impressionanti, e ovviamente sulla Terra è schermata l'atmosfera, quello fanno parte anche quelli di quello che stavamo appena dicendo poc'anzi, che i satelliti lì non c'è aria, è vero, non c'è umido, è vero, non c'è vento, è vero, però sono sottoposti a questi bombardamenti di raggi, beta, gamma, di ogni razza, di ogni genere, non hanno la protezione di mamma atmosfera, quindi sotto mamma atmosfera ci sono mille altre insidie, però di sopra ce ne sono altre che sotto non abbiamo, insomma, ci sono i pro e i contro per tutte le cose. Sì, sono soggetti, e poi quando ti capita qualche meteorite, anche qualche granello, quante un nocciolo d'oliva, già mi pare che quant'era la velocità orbitale, erano a colpi di migliaia e migliaia di chilometri, 35-36 mila, per rimanere in posizione geostazionaria, quindi se si scontrano cose a un milione di chilometri si sbattono, anche un frammento da niente, sono vere, altro che fucilate. Sì, a proposito, siccome io sono iscritto alla newsletter di un giornale astronomico, a fine mese, se mi corse intorno al 19 al 29 di gennaio, sta per passare Marte un asteroide, quindi non un meteorite, perché un asteroide mi sembra che abbia 10 km di diametro, si pensava che potesse anche impattare, poi hanno fatto bene i calcoli, ci passa non so quanti chilometri, però passa proprio radente, è una cosa spettacolare lo stesso. sono quelle cose che si teme che prima o poi arriveranno anche sulla Terra, perché forse sono già arrivati, vedendo i crateri che hanno lasciato, anche se si sono un po' consumati. Insomma, c'è un sacco di cose, succedono, noi non sempre lo dicono al telegiornale, però poi non so se tu lo sapevi, intorno al Medioevo, 1000 qualcosa, nella nostra galassia, quindi nella Via Lattea, era esplosa una supernova, che poi sarebbe il famoso oggetto che chiamano la cosa del cigno, se non mi ricordo, forse M1, gli oggetti di Messier, no? Che adesso praticamente è molto attenuata, devi vedere con un telescopio potente, però quando era esplosa questa supernova ha fatto una luce nel cielo che era praticamente luminoso, o come la Luna, forse anche più della Luna. Questa stella si vede di notte, era luminosissima, faceva paura, e si vedeva anche di giorno, ed è durata non so per quanti mesi. L'avevano osservata e documentata, lo osservavano tutti nella Terra, però l'avevano documentata i cinesi, prima che sono i cinesi. Pensa se dovesse succedere di nuovo. Sì, in diverse cose storiche, mitologiche sono riportate questo genere di cose, sia dai greci, dai cinesi, dagli egiziani, dai cristiani, il cielo diventò tutto nero, solita eclissi, le galline scappavano, le mucche mugivano, i cani abbaiavano, tutte queste cose, oppure erano di notte, all'imbrunire si illuminò tutto il giorno, no? Allora era colpa dei dei, colpa di chi aveva detto la parolaccia, colpa del vicino che andava a rubare le olive. Beh, infatti, ce ne sono parecchi. Secondo me prima o poi qualche bel massetto cadrà anche sulla Terra, vedrai. Non so se l'hai visto quando fanno vedere i documentari su Sky. Tu c'hai Sky, no? No, c'era un laboratorio, eccetera, abbiamo la tessera come cosa, insomma, ci avevano l'abbonamento, poi non abbiamo mai, non abbiamo fatto mai, ci avevano fornito tutto per fare il centro, ero troppo preso dal lavoro, in effetti poi lavoro avrebbe fatto la segretaria, ci abbiamo tutto, parabola, ricevitore, contratti, insomma, a titolo promozionale per incentivare i clienti, motivarli, ma insomma, sono cose che si vedono solo in laboratorio, ma a casa non me ne ho mai messo. Mi trovo a vedere cose molto belle. C'è tra l'altro un documentario che riguarda gli animatori italiani che avevano scoperto, forse nel dopoguerra, che cioè, su questi ascoltavano i russi nello spazio, le prime missioni. Non so se l'hai saputo, i russi avevano avuto molte perdite umane, però ovviamente lo nascondevano perché non volevano che lo sapesse la stampa mondiale, perché se sarebbe stata una brutta figura sia per la Russia stessa all'interno che anche per gli americani, che non siete superiori a noi. E questi rilevatori avevano seguito, sembra un tipo che ha avuto un incidente, forse era anche morto, e loro non avevano detto, e questi li avevano sputtanati. Ma questo problema quando era? Questi giorni c'era, ne stavamo parlando in sezione l'altro giorno alla riunione, che c'era il programma, quando era? Ieri? Ma io non lo so, no, il documentario l'ho visto già qualche mese fa, però vabbè, li ripeto, ogni tanto li ridanno anche quelli vecchi, e sicuramente l'avevamo visto lì, però avevano un sacco di cose interessanti, io non l'avevo mai sentito, avevano due fratelli mi sembra. No, già ne avevo sentito parlare di queste cose, poi cioè a me lo diceva gente che girava il mondo in lungo e larga, tipo l'avvocato Corazza, quella gente lì, perché non potevano sopportare che queste simpatie per la sinistra, quindi mi facevano queste cose, un giorno dovrai rispondermi a questo, scrivitelo, e mi dicevano le cose, cazzo, a distanza di 30 anni, cazzo, c'erano ragione, al limite siamo persi in vista per orgoglio, non ce la direi, ma purtroppo in tante cose avevano ragione loro, cioè avevano un odio viscerale, erano, noi gli dicevamo erano dei fascistoni, erano della gente ottusa, erano purtroppo incerti. Oggi però lo sto dicendo, nel 2007 erano più informati, vivevano più del mondo, avevano gli occhi, una mentalità, cioè come sia una buona o una cattiva vista con la retina dell'occhio, sia una buona o cattiva cultura, una buona o cattiva capacità, più che intelligenza, intuito, riesce a intuire le cose anche se non le hai viste, ci arrivi con pochi parametri e ottieni risultati, cioè, ma allora sembravano degli ottusi, degli asini, noi dicevamo dei fascisti qui e là, ma 30 anni dopo in coccato non avevano ragione, e allora tutte queste cose mi dicevano, ma è successo questo, ma noi le recettivamo come cattiverie che volevano sminuire la Russia, perché loro, l'America era tutto, quello era tutto, la Germania era tutto, il Giappone, le cose, cioè, a noi ci sembravano cattiverie che le dicevano padre e figlio, sia dall'alto che erano una famiglia di avvocati, di dottori, cosa, sia perché non potevano vedere i russi, diciamo. È vero. Ma comunque, no, se ci pensi bene, Tosca, io guardo solamente più documentari. Avevo il base, adesso l'ho anche ridotto perché si può ridurre, sarà che questi... quanto si paga, guardi, viene qualcosa come l'ho anche pagato da poco, ma non me lo ricordo più, non me lo ricordo più, comunque si costa poco, dai, ne vale la pena, ti guardi tutti quanti i documentari, c'è sempre da imparare, da perfezionare cose che magari già conosci e comunque è tutta istruzione. Poi tra l'altro c'è anche quel canale tipo History Channel che ti riprendono tutte le guerre, viste sotto tutti i critici, dal nemico, dalla parte nostra, sono sempre documenti che comunque per quanto tu possa leggere nei libri, a parte che molti sono nuovi, sono testimonianze che magari sono riuscite a strappare in questi ultimi anni, no, io lo trovo molto interessante. Bello, ma è l'unica cosa che c'è in TV che si può vedere, perché si può guardare in TV nostre, a parte i film e i giochi dove regalano soldi, è politica, non c'è nient'altro. Ma proprio di politica stanno un po' cominciando quando fanno i vari programmi, un po' qui, un po' là, o Rai 3, un pochino a svegliarsi il sonno, ma siamo rispetto al resto d'Europa e del mondo, siamo 30 anni indietro proprio con il giornalismo, ce ne vorrà prima di maturare la gente, tirar fuori una vera democrazia, una vera libertà, ce ne vuole. Si parlano di libertà, si vogliono vietare anche di comunicare in internet, e quello per stroncare le gambe a Beppe Grillo, finché lì c'era, era con noi, era un dio, appena detto che meglio ce ne andiamo a casa, stiamo rovinando la nazione, bisogna stroncarlo, togliendo la libertà a tutti gli italiani naturalmente, ma lasciamo perdere. Purtroppo è così. No, mi ricordo io di questi discorsi quando si parlava di Yuri Gagarin, del cane mandato sullo spazio, e quelli mi dicevano, questa gente, certo che hanno messo il cane, poi che hanno fatto morire 200 persone tentando di mandarle nello spazio, poi hanno messo il cane per far vedere che loro, prima di rischiare un uomo, cioè hanno provato con un animale qua e là, e un giorno mi dovrà rispondere. Se voi ci avete ragione, Vittorio Bra, se voi ci avete, perché quando escono a fare competizioni sportive gli mandano le scorte, le guardie del corpo appresso, e poi scappano anche le guardie del corpo con loro e non rientrano più in azione, se stanno bene. Un giorno mi dovrei dare una risposta, non sarà fra un anno, né fra 10, né fra 20, ma me la lo sai. Mi facevano bene. Lo so, vabbè, in effetti era rigida lì, la storia. Poi facciamo anche quelli che avevano spazi belli contenti, secondo me erano cagati sotto. Magari volevano guidare e pilotare dei bei jet, ma proprio andare lì. Comunque, vabbè, di TV sfigate, vabbè, noi siamo sfigati tra gli europei, ma devi vedere, vabbè, le avrei viste, quei canali asiatici, egiziani, mamma mia, dici proprio da tagliarsene le vene. Perché pensi che si mettano a tripare se fanno scoppiare? È vero, poi loro, quando sono vedere i loro canali, girano e guardano le pay-per-view nostre, roba la matti. Comunque, non mi ricordo, questi film... poi strani, mi davano questi film veramente vecchi che si vedevano tutti i graffi della pellicola, no? Tutte le strisciate bianche che correvano. E li hanno in continuazione, chissà che, però magari i film che hanno visto 500.000 volte si riguardano. Ma cioè sono cose che vedo all'ordine del giorno, non posso seguirli, ma ho spirito d'osservazione, queste cose le vedo, non ho tempo di vedermi un documentario per intero, un coso, ma sono sempre con il televisore in mano a casa dei clienti, in laboratorio da una parte all'altra, quindi vedo 3 minuti qua, 1 minuto lì, 1 minuto là, 2 minuti di sport, 2 di telegiornale, 2 di questo, 2 dell'altro e già. Allora il mitico Corazza, allora mi diceva: adesso te lo spiego io cosa succede, mettitelo in mente però, perché un giorno dovrete darmene atto, tu e tutti quelli come te. Sai cosa succede? Questi poveri atleti che li doppano sino a uscirgli negli occhi perché devono portare alto il nome della nazione, sono poveretti, strada batte, non ne hanno colpa perché manco lo sanno il doping che li somministra. Quando escono fuori, che so, c'è una gara in qualsiasi paese, in Germania, in Francia, in Spagna, in Italia, negli Stati Uniti, in Giappone, arrivano lì e vedono queste ville con la piscina, col tutto transennato in legno, con l'erbetta inglese, queste macchine, e chiedono: e questi, che gente, questo dice un fraio idraulico, e li partono a correre e non entrano più. E lì sa che si vedevano bene i militari, quelli che comandavano, e poi gli sportivi che riuscivano a ottenere dei risultati li ripiegavano di soldi, anche perché insomma in quei regimi lì contava quello, no? E poi potevano uscire dal loro paese, ma ci pensi come facevamo di ex noi, questi poveracci, il 27 non ne sentivi uno, non ne sentivi un cinese, non ne sentivi un russo. Poi quando c'è stata la storia che si sono aperti, erano tutti lì che chiedevano i soldi. E in poco si mettevano, 2000 lire chiedevano quasi tutti, 2000, 5000, 2000, erano 3 mensilità. Poi è un fatto che lo facevano, cioè un DX normale nella voce c'ha l'allegria, è contento, si fa la risatina, allora erano seri, più seri, si stavano lavorando. È così, è per carità. Allora dice, chiedeva, che lavoro fa? Dice, e quando diceva, cacchio, sono idraulico io, mio babbo, mio nonno, mio bisnonno, partivano a correre, e i sorveglianti, fermi, veniamo anche noi. Vabbè, poi Russia e tutti quegli stati che confinavano, lì loro, ma... E vabbè, poi c'erano, comunque nel mondo ci sono degli stati veramente dove si vive male. Guarda come avevano questi iracheni. Hanno fatto vedere il documentario della famiglia di Saddam Hussein, proprio lì su History Channel. Facevano vedere tutte le cagate che faceva il figlio, che praticamente era protetto, era mezzo pazzo. Stava in giro a violentare donne, sparare, ha sparato anche al fratello di Saddam. Proprio ci dici di casa, c'è la figlia carina, te la violenta, devi stare anche zitto, se no ti ammazzano, così per tutto per lo Stato. Quello che è successo adesso stanno venendo fuori, prima ci hanno fatto credere che era, gli americani erano il diavolo e loro erano i santi, tutto bene, funzionava, grande tecnologia, grandi ideali, capito, Stalin, Lenin, questo, l'altro, gli operai stavano a poi, con gli anni abbiamo visto che purtroppo era stato un gran bel racconto, insomma, come Babbo Natale, la Befana e il comunista. Tre grandi ebbe, ma poi erano, no, oggi da persone adulte sono state tre favole che si sono sgonfiate man mano che si sta diffondendo la democrazia. Stanno venendo tante cose che non potevamo mai immaginare, cioè quando mai, se tu mi dicevi si è incazzato come una iera, se prima di cadere il muro di Berlino mi dicevi che state zitti voi sanguinari, siete peggio di Hitler, Hitler ha fatto morire 20 milioni di persone, voi 156 milioni solo perché vanno in chiesa con Gesù Cristo, sporchi, zotti, zitti. cioè saremmo arrivati alle mani, a calci, a pugni e a male parole in due istanti, e purtroppo avevano ragione. Oggi stanno venendo fuori, oggi quelli che sembravano buoni erano certe volte più criminali di quelli che abbiamo criticato una vita, e quindi si rimane un po' spaesati, un po' disorientati. Poi oggi è facile, certo, nel 2007, 20 anni che è caduto il muro di Berlino, che è stato un fallimento a 360 gradi, oggi che la Russia è il massimo del capitalismo in Europa e forse al mondo, ci sono dati associati al capitalismo libero mercato, politica da sempre di destra, così abbiamo visto che ha fatto un grande Tony Blair, così ha fatto Zapatero, manco quel fascistone di Aznar che c'era tre legislature e aveva mai spinto la Spagna a una politica economica così sfacciatamente a destra, e questo lo ha fatto. Quindi dicono sono di sinistra, però purché il paese vada bene lo buttano completamente dal punto di vista economico a una politica sfacciatamente di destra, e a un certo punto dico che fanno anche bene, insomma, piuttosto che essere ottusi e portare avanti un seme, una pianta, un sistema che non ha funzionato né in caso del negoziante né a caso del cliente che l'hanno venduto, a un certo punto è bene cambiare rotta e usare politiche che funzionino e che portino benessere veramente a tutti e non solo ad alcuni. Sì, ma secondo te, vabbè, se non voglio entrare nei particolari, per quanto riguarda l'Iraq, l'Iraq sì, stava minacciando i paesi intorno per quello che è stato fermato, è invaso il Kuwait, poi il re dell'Arabia Saudita aveva paura che, perché forse era già stato minacciato, che prima o poi sarebbero entrati lì, avrebbero rubato anche il territorio dell'Arabia Saudita, ritornavo sempre a cose storiche tipo in Mesopotamia, prima il regno arrivava fin là, eccetera eccetera, però c'è presente che in Iraq sono tipo a livello medioevo, a parte quelli che hanno studiato, la maggior parte sono proprio legati al 100% alla religione, alla razza, vecchie usanze, cioè portare la democrazia con la guerra qui secondo me è troppo presto per loro. A noi è servito quando c'era il fascismo, ma noi eravamo già un pochettino più svegli, insomma, infatti l'abbiamo capita subito. Questi qui, boh, cioè cancellare Saddam, sì, avrei tolto Saddam, avrei aspettato che entrasse qualche altro dittatore, sperando che fosse un pochettino meglio, che comunque se tu vai lì nel Golfo, tutti gli stati che ci sono, bene o male sono tutti dittatori, no? Sono tutti i sultani, tutta gente che si è messa da sola a comandare. Ma sì, no, che la gente non sia pronta, la maggior parte, che tutti i paesi si stiano evolvendo con un'accelerazione impressionante, dall'India alla Cina, a chi sono più al rilento di tutti, e l'Africa con tutte queste guerre intestine, queste poi gli interessi economici. Noi siamo primi, noi abbiamo pagato un prezzo caro, finché stavamo piantando oliveti, vigneti, facendo strade, chiese, tutto andava bene. Non appena abbiamo messo il coso, che è tutto un mare di petrolio lì sotto, sono arrivati gli americani, ci hanno spaccato il culo e ci hanno messo... Siamo una vita in punizione, pagando balzelli su petrolio e su mille altre cose. Purtroppo è così. È andata così, avessimo vinto la guerra, secondo me, oltre alla Germania, siamo andati in Italia e Germania, le economie più forti d'Europa, sia perché l'italiano è un popolo di gente laboriosa, intelligente, figli di puttini e puttini, qua avessimo avuto materie prime, non ne abbiamo già, si fa un tenore di vita che un po' tutto il mondo ci invidia, sempre piangendo, lamentando, però tutto sommato, rispetto a tante altre nazioni si riesce anche a vivere meglio. Certo, non abbiamo la precisione perché non siamo statalisti, siamo uno stato giovane di pochi decenni, siamo stati 2000 anni una regione contro l'altra, un paese contro l'altro, un comune, quindi non c'è la mentalità, non siamo una nazione da secoli come la Spagna, come l'Inghilterra, come la Francia, la Germania e tanti altri che credono nello Stato, nelle istituzioni, nelle leggi, infatti tutti questi stati messi assieme hanno meno leggi dell'Italia, più precise, le fanno rispettare. Noi ne abbiamo talmente tante che è impossibile applicarle e farle rispettare. Infatti. Mi è squillato il telefono di nuovo, dai. Devo dedicare qualche minuto alla consort, altrimenti di divorzio. Nacchia la pianta, nacchia la piantina, corri. Sì, sì, ti chiamo dopo, se no ritieni ti salutato. Prova a chiamare se ci sono, se no già, vuol dire sono in giro, o al computer, o in cucina, svuotando il frigo. Se rientri al limite ci sentiamo dopo, se no notte. Anche devo fare la rapina dopo al frigo, eh. Ma ci sentiamo dopo, ciao ciao.